Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Mina Harker, 30 settembre. Quando ci siamo incontrati nello studio del dottor Seward, 2 ore dopo la cena, che era stata alle 6, abbiamo costituito quasi senza rendercene conto una specie di comitato. Entrando nella stanza, il professor Van Helsing, a un cenno del dottor Seward, ha preso posto a capotavola. Mi ha fatto sedere accanto a lui, alla sua destra, e mi ha pregata di fargli da segretaria. Jonathan si è seduto vicino a me. Dalla parte opposta c'erano Lord Godalming, alla sinistra del professore, il dottor Seward nel centro, poi il signor Morris. Il professore ha detto: posso essere certo, presumo, che siamo tutti a conoscenza di fatti riportati da questi documenti. Al nostro cenno generale di assenso ha proseguito: in tal caso, io credo opportuno che vi dico qualche cosa sul genere di nemico che dobbiamo affrontare. Io faccio conoscere a voi qualche notizia della storia di quest'uomo che è stata controllata per mio incarico, così che dopo noi possiamo discutere su come si deve agire e prendere misure necessarie. Esistono esseri come vampiri. Alcuni di noi hanno avuto prove che essi esistono, ma anche se non abbiamo prove dovute a nostra dolorosa esperienza, gli insegnamenti e le documentazioni del passato offrono sufficiente prova per persone sane di testa. Io confesso che in principio ero scettico, se non era che per lunghi anni ho abituato me stesso ad avere mente aperta. Non potevo credere prima del tempo in cui quel fatto mi ha rimbombato negli orecchi: vedi, vedi, io ho prova, io ho prova. Ahimè, se sapevo prima quello che so adesso, no, bastava che lo immaginavo. Una vita tanto preziosa per noi che amavamo lei poteva essere risparmiata. Ma questo è passato. Noi adesso dobbiamo lavorare perché non periscono altre povere anime, mentre noi possiamo salvare esse. Il Nosferatu non muore come ape dopo che appunto, anzi, è solo più forte ed, essendo più forte, ha potere maggiore di fare il male. Questo vampiro che è tra noi ha in sua persona la forza di 20 uomini, ha un'astuzia che supera quella dei mortali, perché sua astuzia è cresciuta nei secoli, e ancora ha gli aiuti che, come implica sua etimologia, è la divinazione per mezzo di morti, e tutti i morti che lui può andare loro vicino sono ai suoi comandi. Egli è crudele, e più che crudele, è un diavolo insensibile, e in lui non è cuore. Può, con certe limitazioni, apparire come e dove che vuole, e in ognuna delle forme che lui possiede. Può governare gli elementi che si trovano in suo raggio, il temporale, la nebbia, il tuono. Può comandare tutti gli esseri inferiori, il ratto, il gufo, il pipistrello e l'insetto, e la volpe, e il lupo. Può crescere e diventare piccolo, e qualche volta può sparire e diventare sconosciuto. Come noi possiamo dunque cominciare nostra lotta per distruggerlo? Come troviamo suo posto? E se lo abbiamo trovato, come possiamo distruggere esso? amici miei, questo è molto. È un compito terribile che noi intraprendiamo e ci può essere conseguenze da fare rabbrividire anche il coraggioso, perché se noi falliamo in nostra lotta, lui certo deve vincere, e allora dove noi andiamo a finire? Vita è niente, io a essa non do importanza, ma fallire in questo caso non è semplicemente vita o morte, è che diventiamo come lui, è che da allora in avanti diventiamo abominevoli cose della notte come lui, senza cuore né coscienza, e prendiamo i corpi e le anime di quelli che a noi sono più cari. A noi per sempre sono chiuse le porte del cielo, perché chi le apre di nuovo per noi? E andiamo avanti nei secoli aborriti da tutti, una macchia sulla faccia del sole di Dio, una freccia nel fianco di Lui che è morto per uomini, ma noi ci troviamo a faccia con dovere, e in questo caso ci dobbiamo noi ritirare? Per me, io dico di no. Ma io sono vecchio e la vita con sua luce di sole, sui bei luoghi, sui canti di uccelli, sua musica e suo amore, è ora molto dietro di me. Ma voi siete giovani, avete conosciuto dolore, ma in serbo sono ancora bei giorni. Che cosa dite voi? Mentre il professore parlava, Jonathan mi ha preso la mano. Ho temuto... quanto l'ho temuto che la natura terrificante del nostro pericolo lo vincesse quando ho visto la sua mano tesa verso di me, ma il suo tocco, così forte, sicuro e deciso, è stato vivificante per me. La mano di un uomo coraggioso basta a esprimere i suoi sentimenti, e per coglierne il significato non occorre neppure l'amore di una donna. Quando il professore ha finito di parlare, mio marito e io ci siamo guardati negli occhi. Tra noi le parole non sono necessarie. Io rispondo per Mina e per me, ha detto. Contate su di me, professore, ha dichiarato il signor Quincy Morris, laconico come sempre. Io sono con voi, se non altro per amore di Lucy, è stata la risposta di Lord Godalming. Il dottor Seward si è limitato a un cenno di assenso. Il professore si è alzato e, dopo aver messo il crocifisso d'oro sulla tavola, ha teso entrambe le mani. Io ho preso la sua destra e Lord Godalming la sua sinistra. Jonathan mi teneva la destra con la sinistra e ha teso l'altra mano al signor Morris. Così, tenendoci per mano, ci siamo impegnati nel nostro patto solenne. Pur sentendomi gelare il cuore, l'idea di tirarmi indietro non mi è mai passata per la mente neppure per un attimo. Abbiamo ripreso i nostri posti e il dottor Van Helsing ha ricominciato a parlare con una sorta di allegro entusiasmo che segnava l'inizio del lavoro vero e proprio, un lavoro da intraprendere con la serietà, l'efficienza e il metodo con cui ci si dedica agli affari importanti della vita. Bene. Voi sapete con che cosa dobbiamo combattere, ma anche noi non siamo privi di forza. Dalla nostra parte noi abbiamo potere di unione, un potere negato alla razza di vampiri. Abbiamo risorse di scienza, siamo liberi di agire e pensare, e le ore del giorno e della notte sono per noi uguali. In effetti i nostri poteri, fin dove essi arrivano, non sono legati, e noi siamo liberi di usare essi. Abbiamo devozione a una causa e uno scopo da raggiungere che non è egoistico. Queste cose sono molto. Vediamo adesso fino a quale punto i poteri generali schierati contro noi sono ristretti e che cosa individuo non può. Infine, consideriamo i limiti di vampiro in generale e di questo in particolare. Per basarci sopra noi, abbiamo solo tradizioni e superstizioni, Queste non sembrano molto a prima vista quando è questione di vita o di morte. No, più che vita e morte. Eppure noi dobbiamo accontentarci prima di tutto perché bisogna. Noi non abbiamo possesso di altri mezzi. E in secondo luogo perché dopo tutto queste cose, tradizione e superstizione, sono tutto. Per gli altri, anche se ahimè non per noi, la credenza in vampiri non poggia su esse. Un anno fa, chi di noi era disposto ad accettare una simile possibilità nel mezzo di nostro 19° secolo scientifico, scettico e pratico? Abbiamo perfino disprezzato una credenza che vedevamo giustificata con i nostri stessi occhi. Consideriamo dunque che vampiro e credenza in sue limitazioni e cura contro lui per il momento si fondano su stessa base. Perché lasciate che io dico a voi, egli è conosciuto dovunque sono stati uomini, in antica Grecia, in antica Roma, prospera in tutta quanta Germania, in Francia, in India, perfino in Chersoneso e in Cina, così lontana da noi in tutti i modi, anche là lui è. E la gente lui teme ai nostri giorni. Esso ha seguito la scia degli islandesi invincibili guerrieri, degli unni generati da demonio, di slavi, di sassoni, di magiari. Finora dunque noi abbiamo tutto quello su cui possiamo agire e permettetemi di dire a voi che molte credenze sono giustificate da quello che abbiamo noi stessi visto in nostra così dolorosa esperienza. Il vampiro sempre vive e non può morire per solo passare del tempo. Può prosperare in quanto che si ingrassa con sangue di esseri viventi, anche di più. Abbiamo visto noi che può anche diventare più giovane e che sue facoltà vitali aumentano più forti e sembra come che si rinfrescano quando suo speciale pabulum è abbondante. Ma senza questa dieta lui non può prosperare. Lui non mangia come altri. Perfino amico Jonathan, che ha vissuto con lui per settimane, non ha mai visto esso mangiare, mai. Lui non fa ombra, lui non fa riflesso in specchio, sempre come osserva Jonathan. Lui ha in sue mani la forza di molti, sempre testimonio Jonathan, quando lui ha chiuso la porta davanti a lupi e anche quando ha aiutato lui a scendere di diligenza, può trasformarsi in lupo, come abbiamo dedotto da arrivo di nave a Whitby, quando ha squarciato completamente il cane. Lui può essere pipistrello, come Madame Mina ha visto esso sulla finestra a Whitby, e come amico John ha visto esso volare da questa così vicina casa, e come mio amico Quincy ha visto esso sulla finestra di signorina Lucy. Può venire in nebbia che ha creato lui stesso. Quel nobile capitano di nave ha avuto prova di questo, ma da quello che sappiamo, la distanza fin dove che può mandare sua nebbia è limitata e può essere solo intorno di lui. Lui viene su raggi di luna come pulviscolo. Di nuovo Jonathan ha visto quelle sorelle in castello di Dracula. Diventa così, piccolo. Noi stessi abbiamo visto signorina Lucy, prima che era in pace, insinuarsi in spazio minuscolo alla porta di sua tomba. Può, appena che ha trovato sua via, uscire fuori di ogni cosa o in essa entrare, non importa quanto essa è chiusa o perfino fusa con fuoco, saldata, dite voi. Lui può vedere nel buio e questo non è piccolo potere in un mondo che per metà di tempo è senza luce. Ma adesso state bene ad ascoltare me. Lui può fare tutte queste cose, eppure non è libero. No, lui è anche più prigioniero di schiavo nella galera del pazzo in sua cella. Lui non può andare dove desidera. Lui, che non è di natura, deve però obbedire a certe leggi di natura. Il perché? Noi non sappiamo. Non può entrare la prima volta in nessun posto se non è qualcuno della casa che invita lui a venire, sebbene dopo può andare e venire come a lui piace. Il suo potere cessa, come fa quello di tutte le cose malvagie, quando sopraggiunge il giorno. Soltanto in certi momenti può avere limitata libertà, se non si trova nel luogo dove è legato a stare. Può cambiare se stesso solo a mezzogiorno e in esatto minuto che sorge o cala il sole. Queste cose a noi sono dette, e in questa nostra documentazione noi abbiamo prove deduttive. Dunque, mentre può fare come vuole nei suoi limiti, quando ha la sua casa terra, la sua casa bara, la sua casa inferno, il luogo sconsacrato, come abbiamo visto quando lui è andato su tomba dal suicida a Whitby, ma in altri momenti può cambiare solo quando viene il suo tempo. Si dice anche che può passare sopra acque correnti solo quando la marea monta o cala. Esistono poi cose che talmente lo disturbano che lui ha non più potere, come l'aglio, di cui noi sappiamo, e in quanto a cose sacre, come questo simbolo, il mio crocifisso, che è stato in mezzo a noi anche adesso quando decidiamo. Davanti a esse lui è niente, ma prende il suo posto molto lontano e in rispettoso silenzio. Sono anche altre cose che io poi vi dico, perché in nostra ricerca possiamo avere di esse bisogno. Un ramo di rosa selvatica sopra sua bara impedisce lui di uscire dalla bara. Una pallottola consacrata sparata nella bara uccide lui, così che è veramente morto. Riguardo al paletto conficcato nel corpo, noi già sappiamo che porta pace, o il taglio della testa che dà riposo. Questo noi abbiamo visto con nostri occhi. Perciò, quando noi troviamo l'abitazione di questo uomo che era, noi possiamo confinare lui nella sua bara e distruggere lui se usiamo nostre conoscenze. Ma lui è intelligente. Ho domandato a mio amico Arminius di Università di Budapest di preparare sua storia. E per mezzo di tutte le notizie che ci sono, egli mi dice chi lui è stato. Deve essere stato davvero quel voivode Dracula che conquistò sua fama combattendo contro i turchi oltre il gran fiume sulla frontiera stessa di Turcolandia. Se questo è vero, lui non era un uomo comune, perché in suo tempo e per secoli dopo si diceva che lui era il più intelligente e il più astuto e anche il più coraggioso dei figli della terra oltre la foresta. Questo cervello potente e questa risolutezza di ferro sono andate con lui in sua tomba, e anche adesso sono schierate contro di noi. I Dracula erano, dice Arminius, una grande e nobile stirpe, sebbene di tanto in tanto ci sono stati rampolli che i suoi contemporanei dicevano che avevano rapporti con il maligno. Essi hanno imparato i suoi segreti in scolomanzia, tra le montagne sopra il lago di Sibiu, dove il diavolo sostiene che su 10 scienziati uno è suo. In cronache sono parole come stregoica, strega, ordog e pocol, satana e inferno, e in un manoscritto proprio questo Dracula è nominato come vampir, che questo noi comprendiamo anche troppo bene. Dai lombi di questo stesso uomo sono venuti grandi uomini e donne buone, e loro tombe fanno sacra la terra dove soltanto in essa può dimorare questa scelleratezza. perché non è ultimo dei terrori che questa cosa malvagia ha profonde radici in tutto il bene. Il suolo, privo di sacre memorie, non può trovare riposo. Mentre il professore parlava, il signor Morris fissava costantemente la finestra e a questo punto si è alzato in silenzio ed è uscito dalla stanza. Dopo una breve pausa il professore ha proseguito. E ora dobbiamo stabilire che cosa noi facciamo. Abbiamo molti dati e dobbiamo progettare nostra campagna. Da indagine di Jonathan sappiamo che da Castello a Whitby sono venute 50 casse di terra e tutte di queste 50 a Carfax. E sappiamo anche che almeno alcune di queste casse sono state di lì portate via. Pare a me che il nostro primo passo deve essere accertare se tutte altre restano nella casa dietro quel muro che noi oggi abbiamo guardato o se altre ancora sono state portate via. In questo caso dobbiamo rintracciare. A questo punto siamo stati interrotti in un modo che ci ha fatti sobbalzare. Da fuori è venuto il fragore di un colpo di pistola e il vetro della finestra è stato frantumato da una pallottola che, rimbalzando dall'alto dell'intelaiatura, si è conficcata nel muro opposto della stanza. Temo di essere nel profondo di me una codarda perché non ho saputo trattenere un grido. Gli uomini sono balzati in piedi. Lord Godalming è corso alla finestra e ne ha alzato il telaio. Mentre così faceva, abbiamo udito la voce del signor Morris all'esterno. «Mi dispiace. Temo di avervi allarmati inutilmente. Ora vengono a spiegarvi». E un momento dopo è entrato dicendo: «Ho fatto proprio un gesto idiota e ve ne chiedo sinceramente scusa, signora Harker. Temo di avervi terribilmente spaventata, ma il fatto è che mentre il professore parlava, un grosso pipistrello è venuto a posarsi sul davanzale della finestra e io ho un tale ribrezzo per quelle maledette bestiacce dopo i recenti avvenimenti che non riesco a sopportarle, e sono uscito per sparargli, come ho sempre fatto in queste ultime sere, ogni volta che ne vedevo uno. Tu mi prendevi in giro per questo, Art». «Lo avete colpito?» ha chiesto il dottor Vassia. «Non lo so, ma penso di no, perché è volato via verso il bosco». E senza aggiungere altro, è tornato al suo posto. Il professore ha ripreso il suo discorso. «Dobbiamo rintracciare ognuna di quelle casse. E quando siamo pronti dobbiamo catturare o uccidere quel mostro in suo rifugio. O dobbiamo, per così dire, sterilizzare la terra, così che lui in essa non può più cercare salvezza. Così alla fine noi possiamo trovare lui in sua forma di uomo, tra le ore di mezzogiorno e tramonto, e così attaccare lui quando è al suo più debole. E ora diciamo di voi, Madame Mina. Questa notte è il termine finché tutto non è bene. Voi siete troppo preziosa per noi perché lasciamo che correte un simile rischio. Quando noi ci separiamo questa notte, voi non dovete più domandare. Vi diremo tutto in tempo giusto. Noi siamo uomini e capaci di sopportare, ma voi siete nostra stella e nostra speranza, e noi possiamo agire molto più liberi se sappiamo che per voi non è pericolo come è pericolo per noi». Tutti gli uomini, perfino Jonathan, mi sono parsi sollevati. Ma a me non sembrava giusto che essi dovessero sfidare il pericolo e forse diminuire le loro possibilità di salvezza, la forza essendo la miglior salvezza nella preoccupazione per me. Ma gli uomini avevano preso questa decisione, e sebbene per me fosse una amara pillola da inghiottire, non potevo fare altro che accettare il loro cavalleresco atteggiamento nei miei confronti. Da veri uomini, mi hanno detto di andare a coricarmi e di dormire. Come se una donna potesse dormire quando coloro che ama sono in pericolo. Andrò a letto. Fingerò di dormire, perché Jonathan al suo ritorno non abbia a preoccuparsi anche di me.